Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi affrontiamo da un punto di vista abbastanza nuovo e insospettabile un grande dibattito che è in corso in questi mesi, un grande dibattito che riguarda tutti noi, tutti i paesi europei, tutti gli europei, un dibattito sull'Europa, sul nazionalismo risorgente, sulla ripresa di attenzione nei confronti dei paesi nazionali, sul senso di comunitarismo che per molti diventa prioritario e che per altri invece è considerato un elemento negativo perché impedisce un'integrazione nelle nostre società. Insomma, un dibattito molto acceso sul quale interviene con una lettura, come vi dicevo, particolarmente originale, il libro di Piero Bassetti che si chiama Svegliamoci Italici. Manifesto per un futuro glocal, è pubblicato da Marsilio, 126 pagine, 10 euro. Piero Bassetti è stato un imprenditore, uomo politico, è considerato uno dei padri del regionalismo italiano, di cui certo lo stesso Bassetti non immaginava poi le disavventure. Per molti anni è stato presidente della Camera di Commercio di Milano e un grande interprete della dimensione glocale, cioè di un'alternativa alla visione della globalizzazione come un processo universale che uccide ogni specificità localistica. E questa dimensione glocale, secondo Bassetti, dovrebbe essere particolarmente forte per noi italiani, che siamo interpreti di una tradizione linguistica, culturale, imprenditoriale, che ha ramificazioni in tutto il mondo e che fa di questa comunità, coloro che italiani non sono, ma che alla nostra civiltà sono legati per una ragione o per un'altra, appunto gli italici, una comunità, dicevo, fra le più coese al mondo. E allora come utilizzare questo patrimonio rappresentato dalla rete così imponente dagli italici nel mondo? Ce lo spiega appunto in questo libro Piero Bassetti, al quale adesso rivolgiamo alcune domande. Buonasera a Piero Bassetti. Buonasera. E allora il suo libro è sull'italicità, che lei definisce un comune sentire, che tra l'altro aggiungo è condiviso da circa 250 milioni di persone al mondo, e anche un modo di stare al mondo, di dare senso al mondo, di svolgere un ruolo nuovo. Ecco, che cosa rappresenta questo legame dell'italicità e che impatto può avere? Beh, dunque, quello che rappresenta secondo me il contributo potenziale che una civiltà come quella italiana, che ha 2000 anni di esperienza, perché italici era il nome delle tribù del sud dell'Italia, poi l'impero romano, poi la presenza nel Medioevo, poi la presenza nel Rinascimento, poi anche l'esperienza del nostro Risorgimento, questo contributo oggi è evidentissimo perché il mondo, come giustamente qualcuno dice, domanda i valori della nostra tradizione di civiltà, perché voglio dire, domanda caffè espresso, domanda pizza, domanda arte, domanda moda, eccetera, tutte cose però alle quali gli italiani, che da ormai un secolo sono, diciamo, radicati nel mondo e che si sono ibridati, contribuiscono e possono contribuire massicciamente. Se prendi per esempio il caso del caffè, è chiaro che, vi dico, l'apporto di Starbucks alla concezione e alla diffusione del caffè è stato un apporto importante. E quindi l'italicità è, diciamo, il sistema di valori, di gusti che gli italiani hanno inventato, anche con l'aiuto dei ticinesi, dei sammarinesi, eccetera, ma anche con l'aiuto di quelli che sono stati gli emigrati, molti dei quali non parlano più neanche italiano, ma hanno una sensibilità che io ritengo è simile a quella nostra, in tutti i campi, dai campi della cucina, della moda, eccetera, ma anche della letteratura, del cinema, eccetera. Uno Scorsese, per modo di dire, è un regista che si avvale di tradizioni culturali fortemente influenzata da un Fellini o da un De Sica. E quindi che impatto può avere questo fenomeno? Questo impatto può avere a seconda di come lo guardi, ma se lo guardi da quello che, diciamo, il primo elemento, la business community, il business, questo vuol dire che oltre ai 57 milioni di italiani che sono ovviamente fidelizzati alla produzione italiana, ci sono 200 milioni di formalmente stranieri che sono però più facilmente fidelizzabili alla produzione di tipo italico di quanto non siano gli anglosassoni, gli spagnoli, i tedeschi, i cinesi, eccetera. Quindi questo per esempio per il business vuol dire una espansione di mercato fidelizzabile in modo più facile che non quando agisci in tradizioni diverse, come può essere. È più facile vendere la pizza a un italico di quanto non sia venderla a un inglese che preferisce il pudding. Io questo l'ho capito quando, tornando dagli Stati Uniti, un paesà americano che parlava malissimo l'italiano mi ha chiesto come si dice pizza in italiano. Certo. Allora ho capito che lui pensava che la pizza fosse un prodotto americano e che quindi con lui si poteva stabilire un rapporto sui temi, per esempio della cucina, molto più facile che non con un francese. Questa piattaforma dell'italicità è strettamente collegata al concetto di glocalismo, infatti il sottotitolo del suo libro accenna appunto a questa prospettiva geografica del glocalismo. Ecco, il glocalismo secondo lei rappresenta un rifiuto della globalizzazione o un superamento della globalizzazione? No, vuol dire un superamento nel senso che realizza la sintesi fra globale e locale anziché la contrapposizione, che è quello che purtroppo a prima vista la gente tende a pensare, cioè che la globalizzazione disturbi il locale e quindi l'arrocco sul locale che si vede presente in tutto il mondo. Cioè nel mondo oggi tu hai una crescente pressione di ciò che è globale, che ci invade tutti i nostri locali, ma è anche una forte tendenza a difendere il locale dal globale. Il concetto di glocalizzazione invece, beh, io uso sempre la metafora, devi pensarlo come in una frazione, cioè se tu metti globale e locale in rapporto fra loro, il valore della frazione aumenta quando il rapporto aumenta, non quando un termine della questione, il globale, aumenta a danni del locale. Cioè è la ricerca di sintesi fra i vantaggi che si possono avere concependo il locale nell'ambito delle esigenze della globalizzazione e viceversa concependo la globalizzazione come rispettosa dei valori specifici del locale. E questa tendenza si esprime attraverso l'immagine dell'open source al quale lei ricorre. In fondo prima i collanti erano rappresentati dalla nazione, dalla patria, ora piuttosto da queste forme nuove di socializzazione. Esattamente, che si vedono quando si organizza la convivenza nei termini moderni, cioè in cui spesso vivi a confronto con delle funzioni. Si può pensare per esempio all'aviazione, al web, a tutto ciò che noi utilizziamo e che ha natura globale, ecco, ma anche quando noi tendiamo a modificare per esempio l'organizzazione del vecchio Stato-Nazione per migliorare l'efficacia delle autonomie. Il caso della Scozia, della Catalogna, anche al limite qualche problema autonomista italiano, nasce intorno a questa esigenza, che mentre prima nel regime degli stati nazionali tu cercavi l'ottimo dentro la protezione della frontiera, oggi noi non siamo più protetti dalla frontiera, dobbiamo proteggerci nella forza delle nostre soluzioni locali rispetto alla sfida della dimensione del globale. Il caso dell'Expo è evidentissimo, cioè nel caso dell'Expo il tema tema del cibo è un tema globale, Milano è sfidata a dimostrare cosa ci sa fare in materia di cibo sullo scenario globale del food. Il suo libro si definisce un manifesto. Un manifesto è un appello, un richiamo all'impegno, alla passione. Ecco, lei a chi lo rivolge questo appello e che cosa si dovrebbe fare? Ma dunque, il titolo è Svegliamoci Italici, quindi senza alcun dubbio l'appello è rivolto agli italici. Però Svegliamoci Italici si può leggere Svegliatevi Italici oppure Svegliamoci alla nostra italicità. Quindi i destinatari di questo appello sono sicuramente gli italici già consapevoli di esserlo, ma anche i potenziali italici invitati a prendere coscienza di esserlo. E naturalmente questo che nel libro è solo accennato è, una volta svegliati gli italici, cosa possono fare? Nel libro si dice che se solo noi ci avvicinassimo a quello che per esempio gli anglosassoni o per certi versi anche gli ispanici hanno già fatto come modo per aumentare la presenza dei loro valori nel mondo, beh, questo sarebbe un risultato al quale io punto con questo che giustamente l'editore ha colto come un possibile manifesto. Grazie a Piero Bassetti, autore di Svegliamoci Italici. Buona serata. Grazie, arrivederci. E il libro di Piero Bassetti sarà presentato il 16 aprile alla Fondazione Corriere della Sera a Milano. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso della gestione delle nostre città, in particolare delle periferie, di come esse siano state trasformate da molti fenomeni che le hanno riguardate non soltanto in questi ultimi anni ma negli ultimi 50 anni e che hanno contribuito a cambiare radicalmente il profilo delle città italiane. Il primo di questi libri è di Gianfranco Dioguardi, si intitola Nuove alleanze per il terzo millennio, città metropolitane e periferie recuperate, pubblicato da Franco Angeli, 172 pagine, 22 euro. Questo libro è l'opera di un autore molto particolare, perché Gianfranco Dioguardi è stato manager, imprenditore, ma è anche un grande studioso dell'illuminismo e un importante teorico del ruolo sociale dell'impresa, delle funzioni rivoluzionarie che l'impresa può avere in una società. E troviamo in questo libro anche gli echi di un tema che gli è particolarmente caro, cioè quello del rapporto, dello stretto rapporto fra la cultura italiana e quella francese. Troviamo degli spunti sulle funzioni dell'imprenditorialità giovanile, sul rapporto tra cultura e territorio che Dioguardi ci invita a leggere in chiave fortemente innovativa, e troviamo soprattutto un clima che cerca di reagire a quello che è un diffuso pessimismo che circola nella società italiana, perché Dioguardi a un certo punto lancia l'attesa di un nuovo rinascimento e ritiene che ci siano le condizioni perché possiamo vivere una nuova fase di questo prodigioso periodo che fu il Rinascimento. Sentiamo come ce lo spiega. Il discorso deve ricercare forme innovative di cultura capaci di coniugare in nuove grandi alleanze l'immaginazione, in particolare quella giovanile, con la razionalità tipica di chi è già dotato di esperienza. Ed è un discorso importante che ha le sue radici proprio negli ambiti scientifici e nei metodi tipici per effettuare ricerca. Emerge dal Rinascimento e trova conferme nella prassi scientifica più recente la necessità di restituire ai giovani ruoli da protagonisti, stimolandoli nella loro immaginazione creatrice. Cominciano così a svilupparsi ipotesi sull'utilizzo di elementi collegati fra loro dal concetto di complementarità, in modo da ottenere nuove sinergie. Ed è proprio la storia che ci suggerisce di riconsiderare come illuminanti esempi di collaborazione le attività operative tipiche della Rinascenza italiana, unite alla razionalità dell'illuminismo francese, mai dimenticando il dubbio come ingrediente indispensabile per una corretta indagine sull'andamento delle cose del mondo. Un libro sull'esperienza non sempre felice della gestione del territorio o sui problemi sociali legati alle trasformazioni delle città italiane è quello di un antropologo torinese, particolarmente esperto del fenomeno delle immigrazioni interne italiane. Il libro si intitola Le vie sbagliate, giovani e vita di strada nella Torino della grande immigrazione interna. L'autore è Dario Basile, l'editore Edizioni Unicopli, 200 pagine, 15 euro. Oggi ci si lamenta quotidianamente dell'immigrazione, ma si dimentica quanto sia stata forte in passato l'immigrazione interna. Fino agli anni 70, infatti, furono tantissimi milioni gli italiani che si trasferirono da un punto all'altro dell'Italia in cerca di lavoro. Nel periodo fra il 1955 e il 70, ricorda l'autore, furono quasi 25 milioni gli italiani che si spostarono, e questo fenomeno fu particolarmente imponente nelle grandi città e in particolare in una città, e cioè Torino. La città passò da 590.000 abitanti del 31 fino a 1.200.000 abitanti nel 1974, quindi raddoppiando in pratica la popolazione rispetto all'anteguerra. E allora si chiede il libro: è possibile un paragone tra quelle ondate migratorie e quelle che oggi colpiscono le nostre città? Sì, risponde l'autore, il paragone è possibile se si parte, dice, dal presupposto che la migrazione è processo di lungo termine, che ha diversi effetti autonomi non solo sulla vita degli individui che emigrano, ma anche sulle carriere formative e occupazionali dei figli e forse persino dei nipoti. E allora Basile indaga su questi processi che si manifestarono nelle ondate migratorie precedenti, che hanno dato vita a risultati che sono tanto interessanti quanto preoccupanti. Per esempio, viene confermato il fatto che l'ascensore sociale è stato più lento per gli immigrati. La differenza di posizione sociale, scrive Basile, tra piemontesi e meridionali sembra perpetuarsi anche nella generazione successiva. Tra i figli di piemontesi, spiega, gli operai ormai sono pochi, 9%, ma tra i figli dei meridionali uno su tre fa l'operaio. E dall'altro lato, quasi un terzo dei quarantenni piemontesi ha raggiunto posizioni nelle classi medio-alte, mentre pochissimi tra i meridionali vi sono riusciti. Qui viene studiata quindi questa ondata migratoria anche nell'impatto che essa ha avuto attraverso gli interventi urbanistici cui diede origine, gli interventi che ebbero luogo nelle politiche sociali, nelle politiche scolastiche, e tutti interventi di cui si trovano testimonianze anche in opere letterarie e cinematografiche. Per esempio Basile cita un film come La ragazza di Via Mille Lire, un film di Gianni Sera del 1979, che illustra in maniera efficace questa realtà, questa situazione. Si descrive che cos'è successo a Torino, quali sono state le condizioni di disagio, i cambiamenti avvenuti che continuano, perché adesso in quei quartieri che erano stati costruiti ed erano popolati dagli immigrati di quelle ondate migratorie vivono altri immigrati, vivono gli extracomunitari con tutti i problemi anche identitari che segnano questo rapporto difficile, un rapporto la cui difficoltà è messa in luce da questa testimonianza citata dall'autore, che è una Marina, figlia anch'ella di immigrati meridionali. Io mi arrabbio molto su questo discorso, perché io vedo molto che gli immigrati di adesso, extracomunitari, hanno come se fosse una pretesa, cosa che io non riscontro sui meridionali di una volta. Adesso arrivano e pretendono di avere un posto sicuro, lo stipendio a fine mese, la casa, la scuola, il lavoro. Insomma, non l'hanno fatto i miei. I miei e tutti gli immigranti di allora sono entrati in punta di piedi. Attualmente ci sono molte cose che privilegiano l'extracomunitario a livello di aiuti, mettiamola così, cosa che prima non veniva fatta. Quindi noi abbiamo vissuto il passato dei nostri genitori. Loro ce l'hanno fatta senza spingere più di tanto. Invece le persone che arrivano adesso pretendono l'aiuto, pretendono di essere aiutati e quindi lo pretendono. Non lo desiderano. Ma ci possono essere terapie in attesa a questa situazione. Per esempio, l'autore ricorda il ruolo che la musica hip hop e la musica rap, che è comune a tutti i gruppi demografici, immigrati di prima, di seconda generazione, extracomunitari, eccetera, può svolgere. E quindi il libro si conclude con una nota di speranza. La musica è indicata come possibile strada per uscire dall'anonimato dei quartieri periferici e come mezzo per comunicare il proprio malessere. L'immigrazione è stato uno dei fenomeni che ha caratterizzato il lungo periodo della crisi economica iniziata ormai diversi anni fa. Uno degli effetti di questa crisi è stato, per esempio, il calo dell'immigrazione degli stranieri in Italia, mentre si è verificato il fenomeno opposto, cioè un aumento degli italiani che lasciano l'Italia e che vanno all'estero. E queste e altre tendenze troviamo nel libro Rapporto sulla popolazione, l'Italia nella crisi economica, pubblicato dal Mulino, 180 pagine, 15 euro. Questo è il rapporto dell'Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione, che è curato da Alessandra De Rosa e Salvatore Strazza. Ed è molto interessante perché fa notare come la crisi economica abbia determinato dei cambiamenti profondi nella composizione e nei comportamenti sociali italiani. Qua vengono esaminati molti aspetti di questa composizione, di questi comportamenti. Viene ricordato l'aumento del divario tra nord e sud, o la minore propensione che si è manifestata in questi ultimi anni e che si continua a manifestare a sposarsi e a fare figli. Si parla a lungo in questo libro di immigrazione. Gli stranieri sono ormai quasi 5 milioni, forse 6 milioni con gli irregolari, ma anche di emigrazione, che paradossalmente aumenta ormai nelle zone più ricche, perché i giovani di queste zone vanno a cercare successo all'estero, quindi rovesciando la tendenza che si era manifestata quando il mezzogiorno si era svuotato per popolare il nord. E sull'immigrazione un libro importante è quello di uno studioso inglese, grande esperto dell'economia africana, che si chiama Paul Collier. Il libro si intitola Exodus, i tabù dell'immigrazione, è tradotto da Laura Cespa per La Terza, 288 pagine, 24 euro. Lui stesso, l'autore, è il nipote di un emigrato tedesco, e qui conduce uno studio multidisciplinare con riflessioni di carattere storico, sociologico ed economico per affrontare appunto il tema dell'immigrazione e rispondere a quelle che si manifestano come grandi preoccupazioni sociali. Per esempio si chiede: i migranti, questo è il titolo di un capitolo, croce o delizia? A chi fanno bene davvero le migrazioni? E Collier risponde esaminando i vari scenari. E come reagire a questo fenomeno della grande immigrazione? Come cambia il concetto di nazione, di comunità in seguito a queste grandi ondate migratorie? Lo studioso ha una risposta netta. Contrariamente ai pregiudizi degli xenofobi, i fatti dimostrano che finora le migrazioni non hanno prodotto effetti prevalentemente negativi sulle popolazioni autoctone delle società ospitanti. Ma, aggiunge, contrariamente ai pareri di coloro che si autodefiniscono progressisti, i fatti dimostrano che in assenza di controlli efficaci le migrazioni registrerebbero una rapida accelerazione fino a raggiungere un punto oltre il quale l'ulteriore afflusso produrrebbe effetti negativi sia sulle popolazioni autoctone sia su quelle rimaste nei paesi più poveri. Insomma, occorrono delle politiche equilibrate che non si rinchiudano o non tendano a rinchiudere le comunità in se stesse sbarrando la porta a tutti, ma non aprano indiscriminatamente rinunciando a delle politiche di regolamentazione di questi fenomeni. Quindi dice Collier che è lecito, conclude espressamente con questa espressione, che è lecito controllare le migrazioni anche perché le politiche basate sul multiculturalismo non hanno funzionato. Infatti l'autore conclude che gli attuali esempi di società culturalmente diversificate non sono tanto incoraggianti da indurci a pensare che sia solo questo l'unico esito possibile di un aumento illimitato della diversità. Insomma, servono politiche. E a questo punto il confettino. Un libro per raccogliere la felicità è quello di Karl Norak con le illustrazioni di Claude Dubois, Le scatole di felicità. È pubblicato da Baba Libri e tradotto da Federica Rocca, 11 libri, nel quale troviamo una bimba scoiattolo che ha una buona idea per seminare serenità. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione, Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.